This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. E buonasera a tutti, benvenuti, bentornati a This is Not an Exit. Siamo dal vivo su Radio Città del Capo, penultima puntata per l'annata 2015-2016. Come penultima? Non sapevo niente, vabbè. E invece sì, il 14 chiudiamo i battenti, dottor Scorrias. Comunque benvenuti a tutti. E a tutte principalmente, perché noi siamo cavalieri, abbiamo anche l'ospite femminile che ci fa tanta compagnia e siamo tanto contenti, insomma abbiamo allargato il discorso, vero Bab? Ci proviamo, poi si restringe, poi si allarga, c'è chi va, c'è chi viene, è un po' un porto di mare, comunque noi ci proviamo. Comunque noi questa sera siamo sempre lì a cavallo tra i 90 e gli 80, 1990 si formano in una piccola cittadina incastrata nel deserto della Bassa California, un gruppo che ha inventato un genere. Quindi un gruppo estremamente importante che a noi piace un sacco, c'è poco da fare. Sono vabbè, i Caius. Sei serioso per parlare dei Caius? Come mai? Beh, perché, come dire, ero sul pezzo il film da Monello. Si dice così qua a Bologna. Ok, ok. Eh sì, effettivamente sì, ho sempre pensato fossero importanti, ma non ho mai capito quanto. Poi sono diventati famosi le loro progenie, Queens of the Stone Age e Fu Manchu, e lì hanno, come dire, battuto cassi. Caius. Sì, hanno avuto un po' di successo, ma neanche tanto, sono rimasti abbastanza nel sottosuolo e come loro altri gruppi Sleep, per dirne uno, del periodo che non hanno mai avuto una risonanza, ancora minore probabilmente, ma a livello di stile sono stati veramente importanti, modificando quello che era l'hard rock e portandolo per certi versi alle estreme conseguenze. We'll be right back. Non ci si sbaglia con i Caius, vengono dal deserto, ma non fanno la solita musica del deserto. Ne abbiamo anche già parlato, dico bene, dottor Scarpa, dottor Corria, a proposito, che ne so, dei Team White Rope, sì, o dei Green or Red, non mi ricordo. Beh, certo che comunque più desertici dei Caius è davvero difficile trovarli, perché loro vengono davvero da una città che si chiama Palm Desert, cioè un nome, un programma, quindi davvero non è una condizione dell'animo, è la condizione vera che loro vivevano a due passi dal Messico, e quindi davvero il deserto era lì. E non era la musica dei Green or Red, che era un country rock, qua si parte, sì, dall'hard rock psichedelico. Sicuramente, forse anche più del Texas per quanto riguarda certe visioni, no? come desertiche. E comunque loro, insomma, nasce un genere proprio a Palm Desert, che è il genere stoner, è proprio la capitale, perché comunque dopo di loro vengono appunto i Queens of Stone Age con Josh Homme appunto e Nico Oliveri, e poi anche i Eagles of Death Metal, che purtroppo abbiamo conosciuto la stragrande maggioranza per vicissitudini molto più tristi. I Caius comunque musicalmente recuperano molto del passato, e tutti dicono vabbè, un po' di questo, un po' di quest'altro, anche Hendrix volendo, e anche i Chrome addirittura, senza magari quella psichedelia dei però certi Chrome si sentono anche nei Caius. E poi insomma il risultato è qualcosa che si avvicina a una manovra revivalistica, ma non troppo alla fine. Beh, i Caius sono nati veramente, come diceva il dottor Scarpa, in una zona che più psichedelica non poteva essere. D'altronde, penso sia uno dei posti più luminosi, più solari, con più sole di tutti gli Stati Uniti. E già la California è parecchio assolata, e noi ci lamentiamo a volte quando piove, ma anche 12 mesi di sole a picco deve essere abbastanza allucinatorio. E d'altronde uno dei loro dischi si chiama Blues for the Red Sun. Che potevano fare questi quattro adolescenti in una cittadina del genere? Non è che fossero messi male, la gente è abbastanza benestante, quindi decisero di piazzarsi in una casa ai margini del deserto, di agghindarla a sala prove e di sfondarsi di ganja e stare tipo settimane intere a partorire riff granitici. Io non ho mai capito se i Caius avessero in testa qualche trattato, qualche scritto di Timothy Leary, si fossero letti Aldous Huxley, quindi i pionieri della psichedelia. Di sicuro hanno voluto e sono riusciti a portare l'hard rock alle estreme conseguenze, probabilmente nel 1991 al loro esordio con Rats provarono a registrare il disco hard rock più estremo che potevano fare, più pesante ma lento, più distorto, più estremo. We'll be right back. cani sono già stremati dal caldo, stesi all'ombra della Saab, con zampe posteriori che fanno piccoli scatti a inseguire conigli onirici. Io e Doug, entrambi in coma da carboidrati, non siamo messi molto meglio e ci troviamo in ottima vena per stare ad ascoltare Claire che inizia la storia della giornata. È una storia di Texlahoma, dice, e la cosa ci fa decisamente piacere, dato che Texlahoma è un mondo fantastico da noi creato e nel quale ambientiamo molte delle nostre narrazioni. È un tristissimo dovunque in cui i cittadini si ritrovano continuamente licenziati dai loro posti come commessi di 7-Eleven e in cui i bambini si drogano e si esercitano ai balli alla moda in riva al lago, mentre peraltro fantasticano di diventare adulti per poter truffare l'assistenza sociale, a intervalli regolari si ispezionano vicendevolmente la pelle per verificare eventuali bruciature da prodotti chimici contenuti nell'acqua del lago. La gente di Texlahoma trascorre il tempo a rubare profumi da poco prezzo nei negozietti e si scambia rivoltellate al pranzo annuale del giorno del ringraziamento. E più o meno l'unica cosa buona è la coltivazione di frumento stentato, per niente ammirevole, dal quale gli abitanti di Texlahoma vanno giustamente orgogliosi, tanto che per legge tutti i cittadini sono obbligati ad attaccare sui paraurti delle macchine adesivi con la scritta «Niente campi, niente pranzo». Da queste parti la vita è noiosa, ma qualche emozione la si trova. Tutti gli adulti hanno in casa grandi quantità di biancheria erotica rossa da poco prezzo che tengono nei cassetti. Nella fattispecie si tratta di mutandine e preservativi stimolanti importati via razzo dalla Corea, e dico via razzo perché Texlahoma è un asteroide in orbita intorno alla Terra e a Texlahoma l'anno è un eterno 1974, proprio l'anno successivo allo shock petrolifero, nonché quello in cui la crescita dei salari in termini reali degli Stati Uniti si è arrestata. L'atmosfera contiene ossigeno, pulla di frumento e trasmissioni radio AM. È una località divertente per trascorcersi una giornata, dopo che diviene solo voglia di scappare via a gambe levate. Thank you. al mastodontico produttore Chris Goss i Caius piacevano, e parecchio. Probabilmente non ci ha messo molto a pensare di accoglierli sotto la sua ala protettiva e a decidere di voler produrre il loro secondo full-length. Il successore, The Wretch, uscito nel settembre del 91, che conteneva molti buoni spunti, ma era stato penalizzato da un messaggio che non rendeva giustizia alla band. Qua ci vuole qualcosa di autentico, capace di ricreare quel sound sabbioso e ancestrale che i quattro tirano fuori dal vivo, avrà pensato Chris Goss. Il risultato? Secondo la rivista Guitar World, Blues for the Red Sun è l'album rock scoperta del 92. Q Magazine li definisce uno dei 50 album più aggressivi di tutti i tempi. Hooray! Beh, magari non si era più nel 1966, ma la psichedelia non era mai morta, si era imbastardita semplicemente col blues, col garage rock, fino a diventare qualcosa, soprattutto il blues, l'acid blues si chiamava così inizialmente, divenne l'heavy metal, c'è poco da fare, ma poi, come dire, col punk divenne una cosa più sotterranea e si rimescolò nuovamente per riesplodere alla grande con i Caius in questo inizio degli anni 90. All'inizio, come abbiamo detto, non ebbe lo suo grandissimo successo, ma poi l'impatto magari gli aiutò anche il grunge, li buttarono forse nel calderone grunge, anche se non c'entravano probabilmente granché, ma i tempi erano comunque cambiati parecchio. Se nel metà degli anni 60 si teorizzava l'uso dell'LSD per un uso ricreativo, beh, nel 90 le cose erano un po' diverse, però nell'LSD, grazie anche all'LSD, nel 1966-67 ci fu una vera e propria esplosione musicale e tantissime case discografiche decisero di pubblicare dischi che altrimenti non avrebbero mai pubblicato, perché la cultura americana, anche inglese, era permeata dall'idea di addizionarsi con l'LSD, tant'è che fu messo fuori legge proprio in quegli anni negli Stati Uniti, fino a culminare nella famosa Summer of Love. Ma era anche legato all'uso di, non solo per, come dire, in senso ricreativo, era anche legato a sottoculture, come dire, aggressive, rivoluzionarie, e quindi la proibizione non poteva tardare più di tanto, perché era una forma di repressione. In questi anni 90 fumare ganja, come immagino i Caius abbiano sempre fatto pesantemente, era più o meno tollerato. D'altronde è un blando sedativo e loro lo ribaltarono tutto tirando fuori tutte le loro frustrazioni con questo suono che, insomma, proprio innocuo non era.

siete sempre sintonizzati su Radio Città del Capo 94.7 96.250, stasera dalla profonda California ai Cayuse e dalla precisione Palm Desert, cittadina appunto nel sud di quello stato-nazione che è la California, che al nord si trova quasi nello stato di Washington, quindi abbastanza fredda, al sud invece è desertica, davvero quasi Messico. Quasi Messico, beh sì, al sud siamo lì. E appunto i Cayuse, con tutto questo sole e questo deserto attorno, sfornavano questi pezzi di canzone molto, molto, molto belli e acidi. Però non si era ancora in retromania. No, sicuramente no. Oddio, c'è qualcosa, perché secondo alcuni era dei tempi dei Blue Cheer, che in America non si sentiva questo suono qua, no? Blue Cheer che sono stati forse uno dei primi gruppi metal, per certi versi, statunitensi. Non mi ricordo i Blue Cheer da dove venivano. Penso San Francisco, comunque metal non lo so, però fine anni 60 un gruppo che impilasse catastri di amplificatori per assordare il pubblico, sono stati i primi. Sì, erano i primi. Era dai tempi dei Blue Cheer che in America non sentiva questa roba così desertica. E appunto i Cayuse facevano quello. Oscurismo, l'abitudine di scandire i momenti della vita quotidiana con riferimenti oscuri per chiunque, per esempio film dimenticati, divi della televisione scomparsi da tempo, nazioni scomparse, eccetera, come mezzo subliminale per sfoggiare la propria erudizione e al tempo stesso il proprio desiderio di distacco dalla cultura di massa. Successo fobia, il terrore che una volta raggiunto il successo i nostri desideri vengano dimenticati e non ci sia più nessuno a soddisfare le nostre esigenze infantili. Tabù personale, qualsiasi regola di vita confinante con la superstizione che permetta di affrontare la vita quotidiana in mancanza di dogmi culturali o religiosi. We'll be right back. Emigrazione dall'ufficio a Malsano, tendenza delle maestranze giovani a licenziarsi o comunque a evitare impieghi in uffici poco salubri o luoghi di lavoro che possono provocare la sindrome da ufficio a Malsano. Perdentismo, la tendenza a schierarsi invariabilmente dalla parte del più debole. La forma espressiva consumistica della suddetta filosofia consiste nell'acquisto di beni poco conosciuti, tristi o di scarsa qualità. Sì, lo so che questi virus fanno schifo, ma facevano un effetto così triste in mezzo a tutte le altre pietanze che non ho potuto fare a meno di comprarli. Ipodose storica, trovarsi a vivere in un periodo storico nel quale niente sembra accadere. I sintomi principali comprendono la assuefazione ai quotidiani, alle riviste e ai notiziari televisivi. Overdose storica, trovarsi a vivere in un periodo storico nel quale sembra accadere troppo. I sintomi principali comprendono la assuefazione ai quotidiani, alle riviste e ai notiziari televisivi. Thank you. Viaggio vaccinato nel tempo. Fantasticare di tornare indietro nel tempo, ma solo dopo essersi adeguatamente vaccinati. Recinto da ingresso, postazione di lavoro piccola e angusta costruita con pannelli smontabili rivestiti in stoffa abitata in genere da un membro del personale impiegatizio, così denominata a ricordo dei cubicoli usati per il bestiame prima della macellazione. Solidarietà generazionale, il desiderio di una determinata generazione di etichettare come imbelle quella successiva, allo scopo di esaltare il proprio orgoglio collettivo. I giovani d'oggi non fanno mai niente, sono talmente apatici. Una volta noi uscivamo a protestare, loro invece non fanno che spendere e lamentarsi. Amici della terra, sottoclasse giovanile particolarmente interessata alla cucina vegetariana, all'abbigliamento batik, le droghe leggere e gli stereo, estremamente sinceri, spesso carenti di senso dell'umorismo. Beh dai, la matrice metallica un po' si sentiva, metallosa, no, ma anche un po' metallica. Avete ascoltato i Caius, abbiamo messo in per intero Blues for the Red Sun, se lo trovate acquistatelo, scaricatelo, fate quello che vi pare. Vi auguriamo la buonanotte a tutti quanti, grandi piccini o grandi piccine, come volete. 22 minuti primi. Grazie dottor Corrias, grazie dottor Scarpa, grazie anche Margherita che ha letto un po' di neologismi indicati per la puntata. Grazie a te Babe e alle ascoltatrici e agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci questa sera con i Caius. Dici sì e ci diamo appuntamento a settimana prossima e buonasera.